La rosa purpurea di Franco D'Assisti. È il momento del cinema Radio 24, un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati alla Rosa Purpura, la nostra ora di cinema settimanale per raccontarvi tutte le novità in sala e non solo. Settimana con 5 nuovi film sul grande schermo, ma anche con molte iniziative di cui ci occuperemo, e allora cominciamo subito a entrare nel clima della trasmissione con i nostri titoli di testa. Torna il mito di Sylvester Stallone. Questa volta nei panni di Jimmy Bobo, un sicario di New Orleans assetato di vendetta nei confronti di un suo mandante. Lo aiuterà un detective di Washington maniaco delle tecnologie. Action movie con valori nella migliore tradizione recente di Sly. Dal best seller alla pellicola. Arriva in sala Bianca come il latte, rossa come il sangue, tratto dall'omonimo libro di Alessandro D'Avenia. Un ragazzo, una ragazza, l'amore e la malattia. E le scelte che fanno diventare grandi. Dirige Giacomo Campiotti di Come due coccodrilli. Interpreta Filippo Scicchitano, lanciato da Scialla. Quando due delle star più magnetiche e affascinanti dell'universo maschile si incontrano sul grande schermo. Ryan Gosling e Bradley Cooper, protagonisti di Come un tuono, opera terza dell'emergente Derek Chanfrens. Delitti e castighi si tramandano di padre in figli, fra Noir e Melò, con una sorprendente Eva Mendes. Una delizia per cinefili è Hitchcock, il film che racconta la genesi di uno dei capolavori della storia del cinema, Psycho. Nei panni di Hitch c'è Anthony Hopkins, in quelli della moglie Alma, Helen Mirren, mentre Janet Leigh è Scarlett Johansson, dietro le quinte del brivido. E allora partiamo con il cinema italiano subito, perché arriva nelle nostre sale, è la proposta italiana di questa settimana, Bianca come il latte, rossa come il sangue, il titolo che riecheggia, ricalca il titolo del libro da cui questo film è tratto, un libro che è stato un bestseller generazionale che adesso arriva sul grande schermo. Lo dirige Giacomo Campiotti, regista che da un po', da 8 anni non vedevamo in sala, ma che al suo esordio aveva davvero stupito tutti con un film che molti, anche della mia generazione, ricorderanno, che si chiamava Come due coccodrilli. Un regista abbastanza, diciamo, esperto, dedito a raccontare l'adolescenza, a raccontare le fasi di crescita, e in effetti in questo caso è proprio di questo che si tratta, la storia di Leo, 16 anni, niente di che a scuola, però tanta voglia di mordere la vita, e un amore che non riesce mai a confessare fino in fondo per Beatrice, la ragazza dai capelli rossi del suo liceo, un amore che, diciamo così, lo mette un po' in difficoltà in maniera contraddittoria, opposta alla spavalderia che dimostra con i professori. Cosa vuole che le dica, prof? Parlo di calcio. Comunque, guardi, è semplice. Prende il registro che ha davanti, lo apre, sì, poi sfoglia i nomi, cerca il suo. E si mette un bel 4. No, come 4, prof? Sta scherzando? No, questo fa. Il comico è lei. Guarda che io non sto qua perché non so dove appoggiare le chiappe, come molti di voi, oltretutto. Fare il professore a me proprio piace. Perché ci sono 3 mesi di ferie per quello. Ecco, quando arriverà il momento di finalmente trovare il modo di avvicinarsi alla bella Beatrice, all'agognata Beatrice, tutto questo sarà attraverso un momento drammatico, quello della malattia, di una malattia molto grave che affligge la ragazza. È una parrucca? Beh, ma ricresceranno i capelli, eh? Tu guarirai, sono sicuro. Non ci credo più. Il mio sangue sta diventando sempre più bianco. Ci sarà una cura, no? Ci vorrebbe un donatore, ma non si trovano compatibili. Vorrei solo ridere. Invece aspetto la trasfusione per avere la forza di farmi una doccia. E allora, chiaramente sarà un percorso, un viatico verso la crescita, verso l'entrata nell'età adulta per il giovane protagonista, occuparsi di questa ragazza, della sua malattia, ma in certo senso anche di se stesso e del proprio amore. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris, cominciamo subito a raccontare un po', insomma, a descrivere e a commentare questo ritorno di Giacomo Campiotti. Come dicevo, un regista che aveva dato prova di sé molto importante al suo esordio, forse un po' meno bene erano andate le cose con la sua opera seconda, quella appunto che 8 anni fa raccontava ancora un po' il mondo adolescenziale di fronte a un dramma. Com'è andata stavolta? Qual è il tenore che prevale? Quello melò, quello adolescenziale? Quali sono gli elementi prevalenti di questo film? Prevale forse troppo, veramente troppo, il côté melò. Cappiotti è un poeta, almeno al cinema, dall'adolescenza, perché poi in TV ha fatto tanti film TV di diversa natura e di diverso genere, però al cinema ha saputo raccontare quella linea d'ombra di passaggio con una spensieratezza forse inusuale per la drammaticità con cui normalmente sul grande schermo viene raccontata quell'età particolarissima, e allo stesso tempo con una certa profondità. Cappiotti ha un animo bambino, quindi in lui in qualche modo alcune ingenuità non solo si perdonano ma sono positive. Qui in verità secondo me non è aiutato dal libro di partenza. Il libro di partenza è stato un best seller, ma è quasi un 3 metri sopra il banco, insomma. La storia di un professore che appunto è di fatto Luca Argentero, la storia di un alunno che è quello interpretato da Filippo Scicchitano, ma di fatto guardato dal professore che è Luca Argentero, e chi l'ha scritto il libro è proprio un professore. Il libro è davvero non superficiale ma piatto nel raccontare una storia che invece è molto drammatica, c'è di mezzo una malattia molto difficile da accettare per chi è nel pieno della vita, c'è di mezzo la crescita con tutte le sue piccole cose, ed è troppo didascalico, e secondo me cade in questo tranello, cioè ciò che su delle pagine che sono indirizzate a un pubblico molto giovane che cerca soddisfazione immediata è efficace, sul grande schermo invece diventa troppo facile, troppo immediato e soprattutto troppo piatto. Non aiuta, secondo me, una buona scelta come quella di Aurora Ruffini, che è la migliore amica di Filippo ed è sostanzialmente il punto di equilibrio di sceneggiatura e di recitazione del film. Scicchitano, secondo me, dopo il film con Cristina Comencini, infila un'altra interpretazione così, cioè dopo l'esordio straordinario in Scialla, in cui sembrava di aver trovato un piccolo fenomeno, anche qui invece si ritrova secondo me chiuso in un personaggio o troppo piccolo o troppo poco scritto, e quindi in qualche modo non può far uscire il suo talento. Deve stare attento secondo me a scegliere i copioni da adesso in poi, e alla fine il film non soddisfa, purtroppo, proprio perché non riesci a fargli fare quel salto di qualità e lo spettatore rimane a vedere quasi una telenovela scolastica di quelle che insomma andavano di moda una quindicina d'anni fa e in cui sono cresciuti molti dei nostri attori attualmente trentenni, 35 anni. Ecco, vediamo ovviamente come la vedrà il pubblico dei giovanissimi, degli adolescenti, dei lettori del libro, che è forse lo zoccolo duro a cui il film tende a riferirsi. Voglio dire due precisazioni: intanto che Come due coccodrilli non era l'esordio alla regia di Cappiotti, che era invece stato Corsa di primavera qualche anno prima, e che invece l'ultimo film, che si chiamava Mai più come prima, era quello che aveva di fatto fra i suoi protagonisti adolescenti una giovanissima Laura Chiatti, insomma, che poi di strada ne ha fatta. La rosa purpurea. Non c'è nessuno, ho lasciato un messaggio. Pronto, Jimmy? Sono Taylor Kwan. Vengo da un altro stato. Sto indagando sulla morte di Ann Greeley, un mio ex collega. Credo che l'omicidio di Louis Blanchard sia legato a questa storia. Se ti interessa scoprire qualcosa di più, raggiungimi al St. Charles Saloon fra 3 ore. È facile diventare sentimentale riguardo a certe cose. Louis era vaccinato, conosceva i rischi e ha voluto correrli. Ho lavorato con lui negli ultimi 6 anni, mai avuto problemi. Ma stavolta abbiamo fatto il nostro lavoro e ci hanno fregato. Sentito che bel clima da noir sporco dentro questo Jimmy Bobo, il nuovo film che riporta nelle sale italiane Sylvester Stallone, soprattutto che ha dietro la macchina da presa un signore che si chiama Walter Hill, come dire, un marchio di fabbrica assoluto in questo genere, e che ha proprio l'amore per quel cinema, la nostalgia forse anche per quel cinema del passato, che sapeva raccontare questi antieroi, controeroi, a volte anche eroi sicuramente duri, durissimi, ma sempre con un codice d'onore, con un codice morale molto molto forte. E chiaramente tutto il cinema recente di Sylvester Stallone è dentro questa linea. Quindi questo Jimmy Bobo, titolo veramente orrendo devo dire tra l'altro, ci sta in pieno. Jimmy Bobo è un sicario, un vecchio sicario ruvido di New Orleans, dopo l'uccisione, dopo aver ucciso un poliziotto su commissione, perché lui fa il suo mestiere, diciamo così, a un certo punto le cose non vanno nel senso giusto. A cercare di metterle sulla riga giusta ci sarà Taylor Kwon, scusate, l'avete sentito nella telefonata, un detective di origini orientali di Washington, che è un po' maniaco delle tecnologie, che arriva, e questa alchimia fra il vecchio Jimmy Bobo, Sylvester Stallone e il suo amico detective darà un po' l'imprinting al film. Boris, un Sylvester Stallone sempre più liftato, devo dire, cioè fisicamente sembra ringiovanire di film in film, ciò non è possibile ovviamente statisticamente, ma ancora una volta però con quella passione per quel cinema che non c'è più e che lui riesce magicamente, questa volta insieme a Walter Hill, a far riesistere tutte le volte. Sì, no, devo dire che l'unica cosa brutta di questo film è il titolo italiano, che quell'aggiunta di Jimmy Bobo davanti al titolo originale grida vendetta, però tranquillizziamo i nostri spettatori, se superano il trauma di quel titolo trovano un film delizioso, che dimostra secondo me quanto sia intelligente Stallone. Si è sempre scherzato su questi suoi personaggi che avevano battute apodittiche, e espressioni non sempre intelligentissime, tipo Rocky, no? Che sembrava sempre un pugile suonato, ma abbiamo di fronte un uomo di cinema di grandissima intelligenza, arguzia, uno appunto che ha saputo diventare grande scrivendosi Rocky, che ha saputo capire qual era il suo posto ad Hollywood, interpretare personaggi che sono diventate icone, e che in questo caso aveva iniziato un noir normale col regista sbagliato e poi ha l'intuizione di chiamare Walter Hill e di fare uno dei gioielli del noir attuale, richiamandosi al passato, sfruttando a suo favore persino quel viso che ormai è smostrato dal botulino e che lo fa sembrare sempre tumefatto. Prima erano i pugni che subiva da Rocky a dargli sempre la stessa espressione, e adesso invece il botulino. Però Walter Hill, che rimane uno dei più grandi registi viventi, riesce a raccontare anche quella faccia, anche quella fissità in maniera geniale, riesce a rendere il centro Stallone di questo film. Tutto è accessorio, la storia, i comprimari, perché basta lui che parla di sé, basta lui che è eco riferito, bastano le sue battute che si riferiscono anche al passato suo di attore e di persona e non solo al passato della storia, e ci si diverte come matti. Ma si divertiranno sia quelli che hanno come punto di riferimento quel cinema che li ha divertiti negli anni 70-80, sia quelli che quel cinema non lo conoscono, perché la cosa bella che scopri è che quel cinema diverte ancora, quel cinema è ancora efficace, di quel cinema forse ne abbiamo ancora bisogno. Poi è girato bene, è interpretato bene, è scritto soprattutto nei dialoghi, perché la storia è giustamente esile, come deve essere in questo caso, è scritta alla grande. E poi c'è quel finale che a noi forse mancava, saranno anche finali ingenui, ma neanche troppo, però sono quei finali che insomma ti avvolgono, ti divertono e ti fanno uscire con il sorriso. Quindi io devo dire, con Jimmy Bobo mi sono divertito come raramente da un bel po' di tempo non mi capitava. Che ci facciamo qui? Ci facciamo due tatuaggi identici. Vaffanculo, stronzo. Sposta la gamba. Vaffanculo? Tu sei venuto da me, tu hai chiesto aiuto a me, io ci ho pensato e ho detto no. Poi vedo quei tizi che cercano di ucciderti e penso che siamo sulla stessa barca. Ma chiariamo le cose. O lo facciamo a modo mio o non se ne fa niente. Insomma, la filosofia molto, molto Sly, tra l'altro, in quanto a vecchietti che sanno starci dentro nel cinema del passato, nella nostalgia, nel riproporlo, mi viene in mente che quest'anno anche Arnold Schwarzenegger con The Last Stand, insomma, ci ha insegnato qualcosa. È arrivato il momento di giocare, il primo momento per giocare insieme, come sempre, con i nostri tre ormai mitici frammenti di un film sconosciuto, fino a quando qualcuno di voi non lo indovina, ovviamente, con la possibilità di vincere il Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. Ci divertiremo un mondo, invece. No, non è vero. Ti direi mai una bugia? Sì, tu dici sempre le bugie. Beh, sì, ma non questa volta. Di che film si tratta? Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo di posta, di corrispondenza ordinaria a La Rosa Purpurea @radio24.it, La Rosa Purpurea @radio24.it, lo ripeto, per provare a vincere il Blu-ray di questo film, e più tardi vi faremo sentire un altro paio di frammenti. In veloce rassegna un altro paio di proposte di uscite di questo fine settimana. Cominciamo con il cinema d'animazione, perché arriva un po' dalla Francia, ma un po' anche dall'Africa come sapore, come disegno. Ricordate Kirikou e la strega Calabà, insomma una serie di film di qualche anno fa ormai, che cercavano un'animazione bidimensionale ma sicuramente molto efficace e molto suggestiva. Ebbene, è il momento di un bambino e di una giraffa. Il film si titola Zarafa. È così che comincia la grande avventura di Maki e Zarafa. Vieni qui, mi appartieni. Non appartiene a nessuno. Le nostre strade si incroceranno di nuovo. Oh, non credo ai miei occhi. Il Pascià sarà felicissimo. Non potevate farmi il regalo più bello! Un regalo? Portiamo Zarafa in Francia. Ti odio! Vuoi bene a questa giraffa? Fammi venire con voi. Sei pazzo? Vuoi attraversare il Mediterraneo? E con una giraffa poi? Boris, dicevamo, le radici estetiche dentro un cinema d'animazione che la Francia sa fare molto bene, che attinge proprio alla tradizione africana, per ricordare che anche oggi si può ancora fare un'animazione a due dimensioni. Sì, la Francia, se ha capito una cosa nel cinema, secondo me è che è meglio saper fare anche un cinema che ha radici nel passato e che può sembrare vecchio, ma saperlo fare bene piuttosto che provare a fare male quello nuovo. E quindi dalle commedie sentimentali a questo tipo di animazione continua a percorrere una strada che può sembrare nostalgica e che invece risulta molto gradevole, piena di qualità, sia estetica che di scrittura. Zarafa è proprio questa dimostrazione, non è un film indimenticabile, per carità, ma è un film gradevolissimo, un'animazione di quelle che magari dei genitori cresciuti con quelli che chiamava cartoni animati di un certo tipo a piacere di mostrare ai propri figli, perché ha quell'ingenuità, quella dolcezza, quella classicità, la storia dell'amicizia tra un bambino e un animale, per quanto bizzarro come una giraffa, insomma, effettivamente non me ne vengono in mente altre nella storia dell'animazione. La presenza dei soliti animali buffi, in questo caso due mucche, si richiama sia a storie più recenti come quella di Madagascar, dove c'è il viaggio, ci sono gli animali, c'è l'Africa come radice e l'Europa o comunque l'Occidente come punto di arrivo, sia appunto a uno stile di racconto che è quello francese, europeo, di un'animazione bidimensionale che ha il coraggio di mettere il racconto al centro, la piacevolezza dei disegni al centro e non la tecnologia. E alla fine è sicuramente un ottimo modo per passare del tempo in famiglia guardando qualcosa di carino, di bello e fatto bene. E allora usiamo questi altri due minuti che abbiamo per invece citare un altro film. È una chicca per cinefili, abbiamo detto nei nostri titoli. 1960, Alfred Hitchcock, dopo Intrigo internazionale, cerca un nuovo soggetto, non lo trova, qualcuno lo invita a farsi da parte, andare in pensione perché forse è troppo vecchio. Lui invece si intestardisce su un romanzo di Robert Block, che si intitola Psycho, ipoteca la casa perché nessuno gli vuole dare i soldi e mette insieme il più grande, forse sicuramente il più noto capolavoro della sua carriera, con una delle scene più famose del brivido, ma poi un film che ha spaccato in due l'esistente cinematografico, facendo morire la protagonista dopo 40 minuti, facendo una seconda parte del film che è tutta un'altra cosa, mi ricorda un pochino la struttura di Come un tuono, di cui parleremo fra poco. Insomma, tutta questa storia, che è veramente manna per chi ama il cinema, raccontata prima da un libro e adesso da un film di Sacha Gervasi con Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, un grandissimo cast. Il film è Hitchcock. Tutti noi nascondiamo un lato oscuro di violenza e di orrore. Io sono solo un uomo con una cinepresa nascosto in un angolo che guarda. Signor Hitchcock, lei è il regista più famoso nella storia del cinema, ma ha 60 anni. Non dovrebbe smettere finché è sulla cresta dell'onda. Così mi uccidi, mi vengono le vesciche solo a guardarti. Sta diventando matto alla ricerca del suo prossimo progetto. Mi serve qualcosa di fresco, qualcosa di diverso. Fu il coltello che un momento dopo troncò il suo grido e la sua testa. Incantevole. Doris Day dovrebbe farmi un musical. Grandissima l'ironia di Helen Mirren. Boris, un minuto per, come dire, mettere il sigillo su questo film, che magari non sarà un capolavoro di cinema, però insomma tanta roba per chi ama questo straordinario spettacolo. Ma io non è un capolavoro, ma lo trovo veramente un gran film per due motivi. Intanto invidio follemente gli americani che prendono un regista come Sacha Gervasi, poco conosciuto, anche se bravo, e gli mettono a disposizione Hopkins, Mirren, Scarlett Johansson, Jessica Biel per fare un film ambiziosissimo in cui mostrare non l'Hitchcock mito, ma l'Hitchcock geloso, l'Hitchcock a dieta, l'Hitchcock che si sente vecchio, l'Hitchcock che porta avanti una sfida che nessuno avrebbe il coraggio di fare adesso in quel modo. Io vi consiglio assolutamente di recuperare il libro edito dal Castoro, perché è gustosissimo, e vedere questo film, perché si vede come si fa il cinema, quanto possa causare sofferenza, allo stesso tempo entusiasmo il cinema, come possa rovinare le vite e renderle piene, e quanto lo si possa amare e odiare nello stesso tempo. E poi guardare Helen Mirren in uno, secondo me, dei suoi migliori personaggi, pieno di ironia, dolcezza, ma anche durezza, vale il prezzo del biglietto, oltre a un Anthony Hopkins che davvero credo che stia spendendo questi anni per dimostrarci che può fare tutto il contrario di tutto. Quindi Hitchcock è più difficile di trovare degli altri film di cui abbiamo parlato, ma quando l'avrete trovato varrà la pena. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, alla prossima. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, la terza parte del nostro programma, un altro film di cui parlavi, su cui intrattenerci, perché è senza dubbio il film della settimana, almeno a nostro avviso. Stiamo parlando di Come un tuono, un film che prende le mosse, racconta già qualcosa nel suo titolo originale, The Place Beyond the Pines, cioè il posto dietro i pini, che è poi la traduzione, diciamo, moderna e occidentale di questa cittadina che si chiama Saskatchewan, spero di averla pronunciata bene, nello stato di New York. È un nome Mohawk, un nome pelle rossa. Come un tuono, allora, il titolo roboante, fatemi dire, italiano, di un film che mette insieme due degli attori più magnetici, due degli attori più da locandina del momento, almeno nell'universo maschile, Ryan Gosling e Bradley Cooper. Insomma, sono due per i quali si paga il biglietto per andare a vedere il film, sono due di quelli che tutti i registi e tutti i produttori vorrebbero avere in un loro film. Derek Chanfrance ce la fa a metterli insieme nello stesso film, anche se, come vedremo, i film sono quasi due, anzi direi quasi tre. Si comincia con il capitolo Ryan Gosling nei panni di Luke, un pilota di motociclette, di quelli che fanno il giro della morte nei circhi, nelle fiere di paese, avete presente? Tra l'altro molto spettacolare la scena iniziale, appunto, che racconta chi è e cosa fa Luke ha una relazione con una ragazza del posto interpretata da Eva Mendes, si chiama Romina, dovrebbe partire scopre, perché la ragazza glielo racconta, di essere lì per diventare papà, cioè di avere un figlio che sta per nascere un figlio suo, decide di non partire, decide di fermarsi, forse per la prima volta, in quel posto dietro i pini, così lontano dal cuore e comunque così lontano anche dalla sua abitudine a spostarsi con le carovane del circo. Ma cosa fare una volta che ci si ferma? Non è facile, è sicuro che Luke vuole fortemente vedere questo bambino, questo figlio, anche perché nel frattempo Romina ha un'altra relazione, ha un'altra storia. Luke era uno che partiva sempre, se ne andava sempre, lei si è cercata una solidità, una stabilità. Questi due mondi ovviamente entreranno in contraddizione. Con l'occhio sempre attento da parte di Ryan Gosling, di Luke, al bambino che ama la follia, in cui vede quel lume di purezza, di verità, di luce che lui per la sua infanzia, per il suo passato e per il suo presente non è mai riuscito ad avere. Il gelato l'ho mai mangiato? Ancora no. Non è possibile. È ancora piccolo. Ma che? Come la mandi avanti quella casa? Nemmeno un po' di gelato. Perché non può mangiarlo? Non è che non può mangiarlo, non l'ha mai assaggiato. Posso darglielo? Vuoi fargli mangiare il gelato? Sì. Voglio fare con lui qualcosa che fa per la prima volta. Voglio guardarlo in faccia quando lo assaggia e tutte le volte che mangerà il gelato per tutta la sua vita vedrà la mia cazzo di faccia. E questo insomma dice molto del personaggio di Luke, però soldi non ce ne sono e allora Luke decide di inforcare quella motocicletta che sa usare così bene e di dedicarsi a delle rapine che provino a tenere viva, diciamo così, la sua paternità indiretta, visto che non è lui che sta dentro quella casa, che sta insieme a quel bambino. Ma siccome, come dice la locandina, se corri come un fulmine ti schianti come un tuono, le corse e le ruberie si schiantano contro un poliziotto giovane che ha il volto di Bradley Cooper. Questa è la scena di cambio. Da quel momento in poi il film segue la storia di Bradley Cooper. Prima un eroe, poi qualcuno comincia a fargli le pulci per cercare di sedare la situazione. Il poliziotto si presta a un'operazione poco chiara della quale presto qualcuno gli renderà conto. Quello che sto per chiederti è molto delicato. L'unico motivo per cui lo faccio è che sei mio amico. Se posso darti una mano? Sì. Che ti serve? Te lo dico. Io e De Luca stiamo lavorando a un caso, no? Voglio che lo tieni per te. È un tantino personale. Non deve venirlo a sapere nessuno. Ok. Io e De Luca stiamo lavorando con questa cazzo di puttana. Dobbiamo tenerla buona con un po' di coca. Così, ecco, quello che ci serve è un accesso temporaneo al deposito delle prove. Devi prenderci un po' di roba, dobbiamo farcela mica, quella troia. Io ho cercato di pararti il culo con quei $7,000. E adesso ho bisogno che tu lo pari a me. Sul serio, Ev. È così che funziona. È così che funziona, la vita non è mai semplice, lineare, non è mai tutto bello, tutto brutto, non è mai tutto buono, tutto cattivo, ed è quello che Derek Chanfrans ci racconta ovviamente dentro questo film, dove da un padre scapestrato nasce un figlio per bene, diciamo così, e dove da un padre pseudo per bene, sedicente per bene, nasce un figlio scapestrato, e saranno proprio i due figli 15 anni dopo a incontrarsi e a regolare i conti dei padri. C'è molto senso del destino, c'è molto senso del fato, ci sono due vite dalle quali è difficile uscire, forse in un film anche un po' tagliato con l'accetta, in un certo senso, dove i personaggi sono molto molto quadrati, dove forse si poteva asciugare qualcosa. Il film dura 140 minuti, 2 ore e 20, nei due macro episodi Gosling, Cooper, si poteva forse asciugare qualcosa, ma in un film che si sedimenta, un film che rimane, nonostante qualche imperfezione, un film che cresce nei giorni dopo averlo visto e che ci conferma in questo senso il talento visivo in questa chiave molto drammatico. Il film ha sempre una nota diciamo grave nell'umanità che esprime dei due personaggi. Chanfrance ci aveva già fatto vedere belle cose con Blue Valentine, sua opera seconda del 2010, uscita solo a febbraio di quest'anno in Italia 3 anni dopo, ironie o bizzarrie della distribuzione, ma che già ci aveva dato, sempre con Ryan Gosling anche in quel caso, ci aveva dato la sensazione di un regista di grande sensibilità, di brillanti intuizioni di regia. E in effetti tutto questo è confermato da questo film come un tuono che mischia i generi, ma riesce ad avere un tono che sia sempre lo stesso, sia quando è noir, sia quando è action, sia quando è film melò, perché ci sono momenti davvero melò. E questa sicuramente è la capacità, insomma, di un film che del resto vuole raccontare come la paternità, il senso della paternità, al di là di generare figli che sfuggono dai nostri sogni e dalle nostre mani molto molto presto, sia anche una sorta di patto col passato che segna poi il futuro. Questo è come un tuono, un film comunque poderoso e che noi consigliamo assolutamente di andare a vedere, anche appunto per il magnetismo che esprimono questi grandi attori. E allora a questo punto noi andiamo a giocare con la seconda traccia del nostro game di oggi. In realtà sei festoso? Ah, ma non solo festoso, sono anche misterioso e impavido e premuroso. E allora, di che film si tratta? Titolo, vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film, la rosa purpurea a @radio24.it è il nostro indirizzo. E allora adesso, esaurita l'ampia l'ampia parte di trasmissione centrale, il core business della nostra trasmissione, cioè i film in sala, parliamo di un'iniziativa del mensile Chuck, che da molto tempo ormai è accompagnato in edicola da uscite di film sempre di grande qualità. Recentemente la collana degli Introvabili, adesso arriva il momento, proprio in questi giorni in edicola col nuovo numero di Chuck, di The Story of Film di Mark Cousins, un bellissimo documentario poderoso, ricco, molto lungo, di 15 puntate, dedicato alla storia del cinema, un'opera omnia che ha stregato tutti nel momento in cui è stata presentata e che adesso è finalmente disponibile anche, insomma, a prezzi e in formati un po' più compatti. Noi ne parliamo con Piera De Tassis, che è sempre una cara amica di questa trasmissione, nonché del sottoscritto. Piera, ciao, grazie per essere ciao, qui con noi. Buongiorno, come va? Tutto bene, tutto bene. Ho visto che Chanfrance, ho ascoltato. Ti è piaciuto? Hai dato una lezione proprio di... Beh, va, dai, fai la brava. Ti è piaciuto quel insomma, film? Sì, ho visto che anche tu hai fatto dei distinguo, ti beh, sei arrampicato. Sì, è un ce ne sono. Da fare. Come si dice, che rimane, su cui si medita. C'ha un po' di errori, ma va bene, ma non... Però loro due poi valgono sempre la pena su tutto, e Chanfrance è veramente un talento. Qui forse è un po' perso. Vabbè, sì, ma non forse, volevo fare no, il no, suo no, lavoro, ma eh. No, ma mi piace, invece io voglio sempre misurarmi. Devo dire che è vero, cioè, come ho detto, si poteva asciugare un po', si poteva tagliare un po' meno con l'accetta. Ma è quando vanno un po' via con l'ambizione, ecco, quando dopo gli elogi per Blue Valentine, che era effettivamente strepitoso secondo me, anche se in Italia naturalmente vabbè ce lo siamo fumati così nell'attesa dei 3 anni, dopo lui ha avuto molti elogi, probabilmente qui ha messo tutta l'ambizione del suo talento, delle storie incrociate, degli episodi, diciamo un po' esagerato. Certo, sfugge un po' di... È comunque un film da andare a vedere, esatto. Io mi sono meravigliato anch'io, perché uscendo dalla sala ero un po' più perplesso di oggi, e invece avvicinandomi al momento di doverne parlare mi rendevo conto che qualcosa era rimasto, soprattutto secondo me un immenso Ryan Gosling, che a mio modo di vedere dà un po' la paga a Bradley Cooper in questo film, però insomma sono due personaggi diversi. Ovviamente hanno un magnetismo diverso, sono uno è un po' più maledetto, l'altro un po' meno, però insomma averne veramente tanta roba. Allora per adesso mi segno da un po' la paga, che adesso è un'espressione tipica sì, un po' milanese, questa è proprio milanese. La userò te la ruberò. Piera, parliamo della vostra iniziativa invece, che è veramente encomiabile, perché questo è un documentario che definirlo già documentario è poco, è un'opera colossale che racconta che cos'è stato, come è nato, come si è sviluppato il cinema, insomma, ecco, qual è stata il vostro approccio e come la editerete nei prossimi mesi? No, la editiamo in due cofanetti. Il primo cofanetto è già in edicola, ed è, sono quattro dischi, quindi è la prima parte delle 15 puntate da 60 minuti l'una, quindi qua voi potete passare un'estate intera a vedere un lungo film sul film, sulla storia del cinema. Prendeteveli ad asse, quando siete in vacanza vi mettete lì a vederveli tutti. È veramente una storia appassionante, perché parte poi da... E scusami, il secondo cofanetto uscirà il prossimo mese, quindi non c'è da aspettare molto. Tra l'altro l'edizione è molto bella, secondo me, anche come i miei di Mondadori, che i collaboratori, quelli che fanno queste scelte assieme a me, perché naturalmente io posso dire sì, ma insomma c'è un problema anche di acquisto, di diritti e tutto. Sono tutti molto bravi e penso che facciamo un bel lavoro di, come dire, di guida alla cinefilia, ma anche all'appassionato di cinema. Questo veramente impedisce. Mark Cousins fa un vero e proprio film attraverso la storia di cinema, dalle origini, parte da Lione, ma contemporaneamente, quindi dai fratelli Lumière, e contemporaneamente dal Griffith americano, quindi parte dalle origini, raccontandoci però proprio la nascita del cinema come nascita di linguaggio nuovo, di meraviglia, di operazione fieristica, e allo stesso tempo come appunto nascita, non dico di una nazione per imitare appunto un grande film di Griffith, ma nascita proprio di un secolo e quindi di un immaginario totalmente diverso. Va sicuro che arriva fino ai giorni nostri e è veramente una cosa divertente. Io poi consiglio di adottarlo, capisco, io sono il direttore, devo anche vendere in edicola, però vi assicuro, io lo adotterei nelle scuole. Questo è uno strumento veramente fondamentale anche di formazione, visto che tanto il cinema e l'immagine non si insegnano nelle scuole, l'abbiamo fatto anche per questo, l'abbiamo fatto anche perché crediamo che bisogna raccontare il cinema per farlo amare. Piera, grazie per la spiega per questa cosa che hai detto sulle scuole, che secondo me è centrale e sempre molto troppo dimenticata. È vergognoso. Sì. Tanto non ne vedremo mai un'uscita, sono molto pessimista su questa cosa. Però io dico, ragazzi, cominciate a occuparvene, ogni volta lo ridico, non si può non ridire che non esista un ministero della cultura degno di questo nome, che si occupi anche di questo. Sono tre ministeri qua che non ce l'abbiamo, potrò dirlo, lo dice Piera De Tassis, non ti coinvolge. No, ma guarda, lo sottoscrive Franco D'Assisti proprio alla grande. Piera, posso fare una cosa, Franco? No? Mi lasci? Sì. Tu probabilmente l'hai già fatto. Io però, è una cosa non popolarissima, però vorrei salutare Roger Ebert, è stato il più grande critico contemporaneo, è scomparso. Chi lo vuole scoprire deve andare sui siti, dappertutto, basta digitare Roger Ebert, scritto così, scoprirete un grande critico, è veramente, visto che parliamo di storia del cinema, bisogna dire che è stato il più grande. Beh, bello, bello, beh, molto, molto bene, molto bene. Allora, con questa, con tutti che staranno googlando adesso. Sì, esatto, no, ma su Twitter ieri era veramente, devo dire, abbiamo postato tutti, anche lo che capisco che non è popolarissimo, però... È quello che ha inventato, per dirlo, quello che ha inventato il pollice su e il pollice verso in televisione assieme a Schiske. È morto a 70 anni, dopo una lunghissima malattia, è anche un esempio di vita. Però, insomma, poi, capito? Io te lo dico. Poi. Bene, no, tu l'hai detto, i nostri ascoltatori l'hanno ascoltato. Io ti ringrazio ancora e, insomma, ci risentiamo sicuramente nelle prossime settimane qui alla Rosa Purpurea. Grazie, ciao Franco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora alla Rosa Purpurea, siamo al cinema da vedere in casa, le visioni domestiche. Prima però fatemi dire che questo weekend è iniziata a Milano e andrà avanti per diversi weekend il festival Il Cinema Italiano Visto da Milano, che ormai è diventato una tradizione. In questo primo weekend tante proposte, dal concorso delle rivelazioni italiane alle anteprime per Milano come Il Volto di un'altra di Corsicato, e poi ancora incontri pubblici, Matteo Garrone a Milano, insomma c'è davvero tanta carne al fuoco. Andate sul sito della Cineteca Italiana di Milano e avrete tutte le informazioni, il programma del Cinema Italiano Visto da Milano. Cinema da vedere in casa invece con gli amici del settimanale Film TV, con Giulio San Giorgio sempre puntualmente qui con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Senti, abbiamo veramente due chicche, non che le altre settimane noi non le si abbia, ma queste a queste ci tengo molto. All That Jazz, cominciamo così, con il grande Bob Fosse, con uno spettacolo straordinario del 1979 su Rai Movie domenica 7 aprile. Sì, questa settimana poi due film che sono particolarissime autobiografie. All That Jazz, domenica su Rai Movie alle 22.40, e L'otto e mezzo di Bob Fosse, geniale coreografo e regista di musical con il suo sensuale, stilizzato, ironico stile modern jazz. Il film racconta l'allestimento di un grande spettacolo di Broadway da parte di un regista teatrale che brucia la vita con il perfezionismo ossessivo del lavoro, la sregolatezza sentimentale, gli abusi di sostanze, fino alla fine, quando il suo cuore si ferma, il musical si trasforma in uno spettacolo di varietà kitsch e dolorosissimo, con ballerine in costume da sistema sanguigno. Folle e tragico autoritratto d'autore, Palma d'Oro del 1980 con Carrie Mulcia, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, e vincitore di 4 Oscar, un film davvero travolgente. E allora questo è l'appuntamento con All That Jazz, domenica 7 aprile 22.40 su Rai Movie. E invece l'altra particolarissima biografia, quella di Persepolis, Marjane Satrapi, 2007, un film importante per chi vuole capire perché l'Iran era un paese così decisivo, così centrale nello sviluppo di quell'area, e perché è importante non perderlo per strada, è importante che la speranza non si spezzi. Esattamente, Persepolis, martedì su Rai 5 alle 21.15, tratto dalla striscia a fumetti della stessa Satrapi. Persepolis racconta la caduta dello Shah nel 78-79, l'integralismo religioso, la guerra con l'Iraq, gli studi di Marianne a Vienna e la scoperta di un'Europa non proprio progressista. Parla poi del suo ritorno in patria e della sua ripartenza per Parigi. È un romanzo di formazione autobiografico in un essenziale tenero disegno, per lo più in bianco e nero, che riesce a isolare la questione universale della libertà e dell'emancipazione della donna islamica e parlare con pungente ingenuità della società e della politica iraniana, e anche di riflesso di quella europea, prima della giuria Cannes 2007. E allora questo è Persepolis, martedì 9 aprile alle 21.15 su Rai 5. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima con le segnalazioni di Film TV. E allora, beh, insomma, come sempre, tante belle cose da vedere anche in TV per rinfrescare la nostra cultura cinematografica. Mettiamo alla prova la vostra invece con la terza traccia del nostro game. Non potete liberarvi di me, non in eterno. Ci sarà sempre la paura. Va bene, con questo, finché un solo bambino crederà ancora, noi saremo con lui a combattere paura. La Rosa Purpura @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo, provate a dirci di che film si tratta per provare a vincere una copia del Blu-ray il sabato e una la domenica, proprio di questo film che sveleremo la prossima settimana. Grandissima partecipazione al game dello scorso weekend, quando mettiamo in campo il cinema italiano degli anni belli, degli anni ruggenti, è sempre così, lo è stato con questo straordinario cofanetto dedicato a Gian Maria Volonté e con La classe operaia Va in paradiso, che era la clip che avevamo estratto. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro, io sono concentrato, sono concentrato. Io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa, mi fisso col cervello, penso a un culo. È fantastico, è una delle battute più belle secondo me della commedia italiana. La classe operaia Va in paradiso, ma anche Sbatti il mostro in prima pagina, ma anche Uomini contro, tre capolavori con il volto indimenticabile di Gian Maria Volonté. I più bravi, più veloci del sabato e della domenica sono stati Maurizio Scala di Nizza di Sicilia, Messina, e Gabriele Micottis di Nimis Udine. Da Udine alla Sicilia, abbiamo messo insieme tutta l'Italia, riceveranno il cofanetto di Raro Video, davvero straordinario, di cui ci parla il nostro Claudio Po. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, tre opere di inizio anni 70 per uno dei più grandi attori italiani di sempre, plasmato da tre grandi registi, Francesco Rosi, Elio Petri e Marco Bellocchio. Edito da Minerva Raro Video, come dicevi tu, questo cofanetto in DVD che comprende i tre film, disponibili anche separatamente, di qualità video molto buona nonostante l'età delle pellicole, e audio monofonico accettabile dell'epoca. Tra gli extra, oltre a un libretto con approfondimenti testuali di 23 pagine, è presente un'intervista al maestro Francesco Rosi, la sceneggiatura di Uomini incontro, in retroscena della lavorazione per la classe operaia va in paradiso, ma c'è anche un incontro col maestro Marco Bellocchio per Sbatti il mostro in prima pagina. Invece andiamo alle novità in videoteca di questo periodo. Arriva un film, un colossal assoluto di Warren Beatty. Erano gli anni in cui il cinema americano ancora faceva i colossal e a volte buttava via anche un sacco di soldi. Stiamo parlando di Reds. Se scioperate, i lavoratori americani non si sentiranno traditi. Американец говорит, что если мы сейчас пойдем на забастовку, то американские рабочие не будут думать, что мы их предали. Stanno aspettando il vostro esempio. Они ждут, что мы пойдем впереди. Stanno aspettando di seguirvi. Se rifiutate di sostenere la macchina di guerra capitalista, seguiranno il vostro esempio. E se i lavoratori del mondo fanno un unico fronte, la guerra finirà. Он говорит, что если мы все рабочие объединимся, то это капиталистическое. Dopo aver raccontato la rivoluzione messicana di Pancho Villa, il giornalista americano John Reed, detto Jack, si trasferisce a New York con il suo amore Louise, anch'essa anticonformista e di idee socialiste. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale i due si recano a Pietroburgo, testimoni ma anche attivisti della rivoluzione bolscevica del 1917. Colossal, diretto e interpretato da Warren Beatty in stato di grazia, il film, che a distanza di oltre 30 anni dalla sua realizzazione risulta un po' datato e figlio degli anni 80, vede la partecipazione di altri grandissimi attori come Diane Keaton e Jack Nicholson, memorabile la fotografia del maestro Vittorio Storaro. Da Universal il film, finalmente in alta definizione, su Blu-ray, di qualità elevata, si denota a tratti un po' di grana, ma è parte della cifra stilistica dell'opera, audio monofonico per l'italiano, quello originale dell'epoca, offre una traccia Dolby ad alta risoluzione multicanale. Scomparso purtroppo il documentario presente nell'edizione americana. E allora invece parliamo di un film molto molto più recente, un film che arriva dalla produzione francese, che si intitola Un sapore di ruggine e ossa. Ma tu avevi molti uomini? Prima? Sì. Stavo con Simone. E basta? Ce ne sono stati altri, ma nemmeno così tanti poi. Mi piaceva essere guardata. Mi piaceva sapere che li seducevo. Mi piaceva vederli eccitati. Ma dopo un po' tutto questo mi annoiava. Stephanie è una donna sicura che ama la vita, lavora come addestratrice di orche sino al momento in cui perde le gambe in un terribile incidente, costretta sulla sedia a rotelle che ne condiziona e trasforma radicalmente l'esistenza. Incontrerà Ali, uomo duro con una vita temprata dalla violenza, grazie al quale inizierà un cambiamento che porterà la donna a ritrovare una ragione per vivere accettando lo stato delle cose. Dramma e tenerezza ben mescolati dal regista Jacques Audiard, uno dei grandi autori francesi contemporanei, edizione Binco Media, solo DVD, comunque di qualità eccellente, in Dolby Digital multicanale, tracce in italiano, ma attenzione anche in francese, comunque da ascoltare entrambe per vivere due diverse esperienze emotive, e come extra segnalo un'intervista al regista. E questo era Un sapore di ruggine e ossa di Jacques Audiard con Marion Cotillard. Grazie Claudio Pofi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E siamo arrivati alla fine con le note della nostra sigla. La nostra rosa purpurea si chiude qui. Il tempo, come sempre, di ricordarvi la nostra community, la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e unitevi al gruppone, così dal lunedì avrete gli scaricamenti in podcast e poi tutti gli altri giorni classifiche, consigli e i vostri pareri sui film che vedete, per poter dialogare con noi tutta la settimana. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha coordinato in redazione, grazie a Calmero Lauricella che ha magistralmente condotto la regia. Appuntamento alla prossima settimana da Franco D'Assisi.